Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo di un argomento che riguarda sia casa che ristorante, quindi mangiare a casa, mangiare fuori. Bene, parleremo dell'orto. L'orto ultimamente veramente è diventato un leitmotiv un po' dappertutto, perché se ne parla continuamente. Gli orti, diciamo, di casa, gli orti di cortile, gli orti di terrazza aumentano giorno per giorno. Libri poi sull'argomento ne escono a bizzeffe. Quindi vuol dire che l'orto è cominciato ad essere al centro dell'attenzione. Allora noi vogliamo andare a capire perché in questo momento, perché negli ultimi anni, ma soprattutto andremo a capire l'orto nel ristorante come funziona, oppure come si può fare un orto in terrazzo, se ci sono queste possibilità anche nelle città metropolitane. E allora cominciamo questo giro un po' a sentire appunto delle testimonianze, ma soprattutto vorrei sentire voi, cari radioascoltatori, che mi raccontiate magari se qualcuno ha un orto in casa, quindi un orto sul terrazzo, appunto cos'è cambiato, qual è il rapporto, oppure se conoscete dei ristoranti dove si mangia con l'orto appunto a un metro, quindi il famoso metro zero, non chilometro zero. Allora, numero verde 800 24 00 24. Messaggi SMS 349-238-6666. Bene, io voglio cominciare, diciamo, questo racconto da Milano, da un ristorante, l'Erba Brusca, che negli ultimi tempi ha avuto un grandissimo successo e ha un orto vicino, un orto che credo abbia ereditato appunto da una vecchia trattoria di campagna, anche se è dentro Milano. E voglio chiedere appunto a uno dei patron, che è Danilo Ingannamorte. Buongiorno Danilo. Buongiorno a tutti. Volevo chiederle, lei pensa che sia stata una delle chiavi di successo del suo locale avere l'orto o comunicare che c'è un orto? Beh, indubbiamente sì, non posso nasconderlo, perché appena aperti l'interesse anche da parte della stampa è stato molto diretto su questo tema, sicuramente è così. Ecco, prego. La ragione per cui abbiamo scelto di mettere un orto è molteplice. Innanzitutto perché il posto ce lo suggeriva molto, molto caldamente per come era fatto, semplicemente. Poi perché penso sia il sogno di tutti gli chef avere una piccola produzione a portata di mano da cui scegliere i prodotti che produce da solo e utilizzarli nelle proprie preparazioni. Ecco, diciamo che poi si instaura, immagino, un rapporto tra la chef in questo caso e l'orto. Diciamo che il vero ortista in questo caso è lo chef. Sì, ovviamente non è da solo, perché ha già da fare in cucina. Certo. E comunque quello che il rapporto che si instaura è sicuramente una maggiore attenzione alla stagionalità. E poi in un secondo momento anche davvero una riscoperta di alcuni sapori. Avere un orto a fianco può permettere a uno chef di magari coltivare cose che non si trovano tanto in giro, ad esempio erbe spontanee che difficilmente si trovano anche sul mercato. Noi quest'estate abbiamo piantato il nasturzio, che è un'erba molto edule, innanzitutto molto buona, che ha un sapore simile al crescione, che diversamente è difficile da trovare. L'abbiamo utilizzato parecchio nelle preparazioni dei nostri piatti. Bene, grazie a Danilo Ingannamorte dell'Erba Brusca di Milano, e ricordo il numero verde 800 24 00 24. Ora da ristorante andiamo a casa. Andiamo da Stefano Pissi. Stefano Pissi è un grandissimo esperto e diciamo ha creato questa associazione degli ortisti e lui stesso è un creatore di orti e di casa. Buongiorno Stefano. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Senti Stefano, è cresciuta molto in questi ultimi tempi la domanda di orto sul terrazzo, orto di casa? Moltissimo, moltissimo, è cresciuta specialmente anche nell'ambito delle scuole, sensibilità da parte degli insegnanti e nelle comunità anche di recupero per sfruttare l'orto sia come mezzo educativo di recupero, e anche i prodotti stessi per poi essere portati in cucina direttamente dall'orto alle cucine o delle scuole o delle comunità per essere utilizzati come cibo. Senti, ho un SMS che mi dice: troppi chef confondono quattro erbe aromatiche con l'orto vero. Ecco, l'orto vero da che cosa è composto, Stefano? L'orto vero è composto dalle verdure vere, non so, dalle verdure innanzitutto di stagione, come diceva lo chef dell'erba brusca, e quindi l'importante è non forzare a voler tutto in tutte le stagioni, ma adeguarsi a quelle sono le stagioni che corrono, insomma. Ecco, qui è, diciamo, si può fare un identikit di chi oggi si fa l'orto sul terrazzo o l'orto, chiamiamolo, di casa, anche se non si può fare dentro casa. Allora, l'identikit è abbastanza è diffuso, lo fanno in tantissimi, anche non solo contattando noi dell'associazione o gli altri esperti, ma qualsiasi persona che conosco ha c'ha un vaso con un pomodoro o con del basilico, è diventata proprio quasi, appunto, una moda, quasi una mania, ma è bellissima questa cosa, perché quando è nata l'associazione il pensiero è stato proprio questo, di ricollegare l'uomo alla natura attraverso l'orto, e poi è venuta fuori questa moda. Bene, tra l'altro sentiamo Marco da Como, radioascoltatore. Buongiorno Marco. Buongiorno Davide, complimenti per la trasmissione, sono fin troppo ovvi. Io sono un piccolo coltivatore, nel senso che ho un piccolo orto a Cantù, proprio fuori casa mia, e sono molto contento di questa trasmissione, che poi ascolterò con gioia, perché l'orto è la gioia di saper aspettare, di rispettare le stagioni, di potersi gustare qualche piccola prelibatezza e inventarsi qualche piatto sulla base di quello che si coltiva, e poi anche di utilizzare in questi periodi dell'anno, quindi un po' fuori stagione per chi abita al nord, le conserve degli ultimi pomodori verdi che si sono potuti raccogliere qualche tempo fa. Insomma, l'orto fa felice. Beh, poi avremo un autore di un libro che appunto ha scritto Gli orti felici, mi sembra di capire. Grazie Marco. Ora ricordo il numero verde 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666. Grazie a Stefano Pissi, lo ricordo, associazione ortistici, dai la tua email: www.gliortisti.org. Bene, grazie, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete nell'orto con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, orto, sempre orto, fortissimamente orto. Sentiamo un radioascoltatore, Pietro da Perugia. Buongiorno Pietro. Buongiorno dottor. Io ho brevettato un orto rotante che è sul Google, oppure VV Orto Rotante It, che è proprio fatto per casa, sperimentato. Bene. Lei può vedere se può, ma mi sembra molto attinente alla trasmissione che sta facendo. Certamente, ha ragione. Grazie Pietro, grazie. Lei ha dato appunto i riferimenti, sicuramente molti radioascoltatori lo andranno a vedere. Allora, io voglio leggere un altro SMS. Dice: la gente che non mangia carne aumenta. L'orto è vegetariano. Questo è il motivo dell'aumento, più la crisi. Questo è un radioascoltatore, chiama da un taxi addirittura. Allora, io ho, come si dice, cade a fagiolo, con noi in linea, un noto sociologo. Credo che sia proprio il più adatto a parlare di relax, di ozio creativo, di verde. Buongiorno Domenico De Masi. Buongiorno a voi. De Masi, secondo lei questa, diciamo, boom dell'orto sul terrazzo, addirittura l'orto nei ristoranti o i ristoranti nell'orto, insomma l'orto come protagonista pare apparire all'orizzonte, qual è secondo lei la motivazione? Ma secondo me due sono evidenti. Uno è questo ritorno alla natura, questo senso del miglio vicino, dello slow food, del fatto di essere sicuri di quello che si mangia. E dall'altro, questo più recente naturalmente, è lo spettro della crisi, che in qualche modo riporta soprattutto gli anziani. Sentivo la voce del precedente, sì, vostro, certo, interlocutore, degli anziani che rivanno con la mente agli orti di guerra dell'epoca fascista, quando entrati in guerra si trasformavano in orto tutti i parchi pubblici, tutti i giardini pubblici, eccetera, perché c'era da supplire alla mancanza di derrate alimentari. Questi sono, secondo me, due motivi immediati. Poi ci sono motivi di moda, motivi di il fatto stesso che voi ne state parlando, naturalmente, e finirà per indurre alcuni a sperimentare gli orti sul terrazzo. Guardi, su di me no, perché l'ho già fatto. L'orto sul terrazzo l'ho già fatto da lungo tempo. Comunque rimanga con noi, De Maggio. Ora sentiamo Marina dalla provincia di Como, una radioascoltatrice. Buongiorno, sono una radioascoltatrice, ma penso di parlare proprio a livello di collaborazione sul campo, nel senso che mio marito è un piccolo florovivaista della provincia di Como e vedo proprio per esperienza, nei momenti in cui collaboro con lui in questa attività, quanta gente si rivolge a noi per l'acquisto di sementi, l'acquisto di piantine, cioè l'importanza della scelta dei prodotti, ma che è poi anche una riscoperta non solo di una cosa destinata all'età adulta. Una volta erano i nostri vecchi, come diceva il signore poco fa, che coltivavano l'orto. Ora quanti bambini, voi non avete idea di quanti bambini hanno voglia di venire a comprare una piantina di orto, una piantina di pomodoro, una piantina di basilico, provare a mettere la cipolla di mora adesso e aspettare con pazienza che questa pianta possa mettere un germoglio. E capiscono oltremodo che quello che trovano, i piselli che trovano sul piatto o il pomodoro, non è frutto di una lavorazione semplicemente industriale, ma può essere frutto anche di tanta passione, competenza, amore. Grazie. Buon segno, credo, che i bambini tornino a questa voglia, e buon segno che i genitori li accompagnino, per cui credo che le nuove generazioni stiano portando avanti, un po' per magari anche per moda, ma un messaggio che sicuramente vale la pena di... Grazie Marina, grazie Marina, ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Leggo un sms: quando porti i clienti nell'orto e possono vedere e scegliere, imparano anche ad apprezzare verdure, erbe e frutti quando li servi loro a tavola. Allora, questo mi permette di introdurre un grandissimo, grandissimo ristoratore pugliese, forse uno dei primi che tantissimi anni fa ha fatto dell'orto e della ricerca in Puglia il suo pezzo forte. Buongiorno a Pietro Zito. Ciao Pietro. Pronto? Davide. Ciao Pietro, come grazie stai? Di ricordarti di me sempre, grazie. Come stai? Benissimo, belle giornate in Puglia. Senti Pietro, tu sei stato uno degli antesignani dell'orto. Io ho letto un sms perché dice appunto che il cliente può apprezzare di più quello che mangia quando tu lo porti a far vedere il tuo orto. Ma guarda, il cliente apprezza perché noi emozioniamo con quello che abbiamo prodotto. Prego. Portare a tavola una cosa che abbiamo lavorato, visto nascere, ti crea già a noi un'emozione. Immagini chi lo mangia poi. E qui il rapporto diverso con il cibo e cambia a noi. Ecco Pietro, tu nel tempo hai visto crescere l'attenzione anche quando tu gli spieghi queste cose, gli fai vedere l'orto nel consumatore che non è più magari distratto e di fretta come un tempo? Guarda, io consiglio chi viene a pranzo da me di visitare prima o dopo il pranzo l'orto per capire il valore aggiunto del cibo. Uno vede veramente cosa sta mangiando. Capisce che è un mio sacrificio, una mia gioia offrire il mio lavoro. D'altronde sono 20 anni che abbiamo l'orto noi. Sì, appunto, per questo ti ho chiamato, perché tu sei stato veramente un antesignano su questo. Quando ho aperto il ristorante non potevo concepire una cucina senza un orto, perché essendo contadino il prezzemolo lo prendiamo dall'orto, non dal frigorifero. Certo, siamo nati con l'orto. E poi c'è anche il fatto della stagionalità, capire la stagionalità dei prodotti. È la cosa più bella che possa succedere per un cuoco, interagire con un prodotto, capirlo, apprezzarlo, rispettarlo. I miei ragazzi cucinano in base all'orto, no? Le ricette sono messe un po' da parte e si inventano nuove formule di ricette in base alla produzione, all'esubero, all'eccedenza, al recupero. Per cui è la cucina che si va ad adeguare all'orto. Bene, grazie Pietro Zito, non ho detto il nome del ristorante, sicuramente vale veramente una visita. Osteria Antichi Sapori di Montegrosso di Andria, andate perché vedrete uno spettacolo, questo è un grandissimo ricercatore di prodotti che stavano scomparendo e ha un orto stupendo. Grazie Pietro, non posso anche non nominare il tuo collega Beppe Zullo che proprio in questi giorni ha inaugurato un ristorante nell'orto. Ebbene, Beppe Zullo è stato introvabile, non lo siamo riusciti a trovare all'estero, però volevo ricordarlo comunque. Voglio tornare a Domenico De Masi perché abbiamo sentito diciamo che questo rapporto tra consumatore e la materia prima è molto importante secondo lei, De Masi? È fondamentale perché noi ci siamo abituati per millenni a mangiare cose che avevamo coltivato direttamente o avevamo cacciato direttamente, quindi siamo dal punto di vista dell'esperienza persone abituate a mangiare ciò che hanno visto nascere o che hanno visto morire in qualche modo, quindi questo rapporto non può essere cancellato attraverso cibi che vediamo in scatola, che ci vengono non sappiamo da dove, non sappiamo perché, non sappiamo secondo quali interessi e comunque sospettiamo che non coincidano con i nostri interessi, quindi è un principio fondamentale, un principio di natura che va rispettato e va restaurato, perciò il successo di tutte queste forme di ripristino, diciamo, del nostro rapporto con ciò che mangiamo. Bene, la ringrazio De Masi, grazie tante di queste sue osservazioni. Grazie a voi e auguri per la vostra trasmissione. Grazie, a presto. Io voglio sentire Sara dalla provincia di Viterbo. Buongiorno Sara. Sì, pronto, buongiorno. Mi dica. Senta, io volevo segnalare un ristorante in provincia di Viterbo, precisamente a Villa San Giovanni in Tuscia, è un piccolo paesino. Questo ristorante, al di là che ha dei prodotti di ottima qualità e una pizza eccellente, molto spesso prende le cose dal suo orto, ma così, alla campagna, ai suoi polli, a tutto. E quando si va lì, uno va per la pizza, ma si dice, ma oggi ho fatto la zuppa di farro, ho fatto la zuppa di fagioli. E quella signora, la mamma anziana, prepara le sue cose. E questa è una fantastico. Cosa bellissimo, perché comunque si ha proprio un senso di familiarità quando si va lì. Bene. E' anche bello per il cliente, non sempre è bello andare magari nei ristoranti di super lusso, certo. È bello anche andare in questi posti, proprio perché ci si sente a casa e proprio come a casa propria si prende la verdura dall'orto e quello che c'è si mangia. Grazie Sara, grazie Sara della sua bella e romantica testimonianza. Andrea da Urbino, radioascoltatore, buongiorno Andrea. Buongiorno, mi sente bene? Io non lo sento. Prego, prego, vada avanti. Buongiorno, senta, io faccio l'agricoltore, ho 52 anni, da 25 anni facevo l'allevatore, ho fatto le mie battaglie, le ho perse tutte contro il cibo spazzatura e ci eravamo conosciuti qualche anno fa quando ancora resistevo con le macchinette del latte di cui lei si era occupata. Ah certo, mi ricordo. Quando litigammo con la loro presidente della centrale latte di Firenze. E poi è andata come è andata, male, cioè perché l'allarmismo terribile che è stato fatto, perché evidentemente questa nostra iniziativa non faceva molto piacere alla lobby agroindustriale, insomma. Ma questo è una questione diversa. Io volevo dire che da qualche anno, visto che non ho più le vacche, sono più libero, faccio l'orto. E a 50 anni la soddisfazione che traggo dal mangiare i miei pomodori, i miei peperoni, i miei cetrioli è qualcosa di incredibile. Ammetto di essere stato ignorante fino a 50 anni. Ho fatto una provocazione però, ho postato, credo che si dica così, su Facebook, visto che ho tanta terra che non rende quasi nulla e non penso che questo possa essere il modello di sviluppo agroalimentare, quello di andare ai supermercati e mangiare tutti cibo spazzatura perché fa schifo, fa male. Ho fatto questa provocazione, cioè l'anno scorso ho detto io destino un ettaro o due di terra in Rigo, in pianura, a metà strada tra Pesaro e Urbino, facilmente raggiungibile in un posto bellissimo, e a chiunque voglia farsi il suo orto, 100 metri, 150 metri, la do gratis, che è anche un modo di sviluppo, anche dal punto di vista sociologico, di rapporti umani, il sabato e la domenica, eccetera. Guardi, prima di interromperla perché devo passare la linea, mi scusi Andrea, prima di interromperla per passare la linea alla regia. Migliaia, sa quanti hanno risposto in uno? Ah, beh, comunque dia la sua dove trovarla? Dia un'email, dia qualcosa? Ah, la mia mail, oppure no, su Facebook. Ecco, su Facebook come la trovo? Come mi chiamo? Andrea Busetto Vicari. Andrea Busetto con una S2T, Vicari. Bene. Sono l'unico al mondo con questo cognome. Bene, quindi vedrà che sicuramente arriverà qualcosa. Linea alla regia, torneremo fra poco. il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare dell'orto. Avete sentito già, abbiamo sentito degli spunti davvero molto interessanti. Devo dire che sto ricevendo caterve di SMS, non so se riuscirò a leggerle tutte, però prima volevo tornare su una trasmissione fatta 2 settimane fa che ha destato non poche polemiche. Era quella sul tartufo, che l'avevo titolata Chi l'ha visto. Allora mi hanno segnalato che su 2 giornali locali di Rimini sono uscite delle cose abbastanza, come posso dire, completamente fasulle. Si dice: Sant'Agata sfida il gastronauta Paolini sul valore del tubero. E poi ancora: l'assessore Vicini invita il gastronauta Paolini per mostrargli che in queste terre il tartufo cresce. Innanzitutto io non ho ancora ricevuto nessun invito ed è passato tanto tempo, quindi prima di scrivere certe cose bisognerebbe pensarci 2 volte. Sul punto che io avrei addirittura dichiarato che a Sant'Agata Feltria il tartufo non esiste, devo dire che lo può aver detto solamente uno che spara cazzate in libertà, come è stato fatto da un signore che era intervenuto da Acqualagna a proposito del tartufo. Credo che sia stato lui il referente a questo assessore di questa mia battuta. In realtà io sfido chiunque ad andare a sentire quella trasmissione e trovare una mia battuta su Sant'Agata Feltria, ma non solo sul tartufo, proprio non ho mai citato, è stato citato da alcuni ospiti e da alcuni partecipanti. Tra l'altro conosco molto bene Sant'Agata Feltria per esserci andato da bambino moltissime volte, quindi devo dire che prima di scrivere e prima di affermare certe cose vale la pena di andare veramente a controllare e non scrivere delle stupidaggini o non dire delle stupidaggini. Se poi questo assessore Vicini mi vuole invitare, devo dire che andrò a scoprire quello che già conosco, non sicuramente quello che non conosco. Bene, passiamo agli orti che sono più tranquilli e fanno stare con più tranquillità. Sentiamo Pietro da Modena, un radioascoltatore. Buongiorno Pietro. Buongiorno, io sono un dirigente di banca in pensione e quando sono andato in pensione mia moglie ha avuto la bella idea di farmi prendere un orto che a Modena viene dato gratuitamente dall'amministrazione comunale in certi onlus che si sono creati sul territorio. E la soddisfazione è enorme perché si mangia delle cose che si vedono crescere, ma soprattutto la qualità, i sapori che sono imparagonabili rispetto a quelli della verdura che si compra al supermercato. Questi orti sono in centri sociali praticamente, quindi sono anche degli veicoli di aggregazione per persone anziane sole. Io fortunatamente non lo sono, però vedo che sono dei grandi veicoli di aggregazione ed è importante dal mio punto di vista creare una irrigazione automatica sull'orto in modo da non crearsi la schiavitù di dover andare tutti i giorni. Bene, la ringrazio. Grazie. Io ora ho come ospite un noto chef, forse l'unico in Italia, grande chef, diciamo vegetariano, forse anche oltre, che è Pietro Lehmann di Gioia di Milano. Buongiorno Pietro. Buongiorno Davide. Senti Pietro, tu l'orto non ce l'hai per motivi di spazio, immagino. Sì, anche se sai che io vivo con un piede in Svizzera e uno a Milano e quindi poi ce l'ho in Svizzera, lì mi coltivo delle cose, ad esempio il rabarbaro che faccio, ho difficoltà a trovarlo sui mercati italiani. Ecco, volevo chiederti Pietro, secondo te è importante per uno chef avere il proprio orto? Ma sicuramente trovo molto interessante, perché avere l'orto ci ricollega alla natura in modo molto vicino, perché spesso quando cuciniamo rischiamo di essere distanti da quello che facciamo perché non conosciamo la sostanza delle cose, invece coltivando sia proprio questa sostanza. E l'orto è anche interessante sia coltivando ma anche andando a raccogliere ad esempio erbe spontanee, perché poi la natura è un orto immenso pieno, certo, di cose, certo, da cui si può attingere. E quindi è quello che un po' faccio io, perché per capire cosa cucino è fondamentale che io capisca da dove vengono le cose e anche come farle, come crearle. E a quel momento, non so, allora magari sono all'orto, assaggio un rapanello oppure raccolgo del tarassaco, lo mangio nella natura e mi dà degli spunti che poi entrano nella mia cucina. Bene, grazie Pietro della tua testimonianza. Grazie, a presto. Pietro Lehmann, Gioia di Milano. Bene, sentiamo Gianni da Lecce, un radioascoltatore. Buongiorno Gianni. Buongiorno dottor Paolini. Prego. Io andando in pensione volevo scoprire cosa devo fare dopo e ho scoperto l'orto. mi è stato lasciato dai miei suoceri e quindi io metto di tutto. Adesso quando hanno chiamato le signorine io stavo mettendo dei finocchietti perché faccio di tutto, dalla verdura, tutto, gli agrumi, tutto, quindi li faccio tutto da me, qualsiasi cosa, cavolfiori, tutto. E quindi per la genuinità, io ho anche questo, diciamo così, discorso, se vedo qualcosa che magari se la mangia un vermicello, dico deve mangiare pure lui, non gli butto il veleno, non butto niente, non fa niente. Certo. Quindi ho scoperto questo e... Adesso qua anche nel Salento sta facendo delle giornate splendide che sembra estate e quindi mi permette di fare un po' tutte le cicorie, tutto. Quindi bene, ecco quello che io volevo grazie, dire. Grazie Gianni, invece c'è un SMS che non la pensa così, chi ha un orto produce se usa la chimica, poi lei sa quant'acqua si spreca, una pianta di pomodoro, 100 litri di acqua, le sembra poco? Bene, ci sono anche gli antagonisti appunto di questo fenomeno, ognuno la pensa come vuole. Numero verde 800 24 00 24. Ora abbiamo con noi un personaggio che mi ha colpito la sua definizione, personal trainer della zappa. Dico che più divertente di così non ci può essere, ma dietro c'è un mestiere. Buongiorno Fabio Mastrella. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta Fabio, lei si definisce una bellissima definizione. Cosa intendeva dire con questa definizione? Ma non l'ho definita io, questi sono stati un po', diciamo, i giornali che hanno definito questa cosa come cosa, diciamo, insolita. Certo. Perché andare a insegnare a delle persone a fare un orto è una cosa un po' insolita. Insomma, lei fa lo stesso, diciamo, mestiere degli ortisti di Stefano Pissi. Senta, ecco, lei ha detto vado a insegnare. Chi è il suo cliente? Il cliente è una persona chiunque, cioè chi decide di riscoprire, come dicevo, ho sentito un pochino la vostra trasmissione, sì, adesso, molte persone vogliono riscoprire un pochino il sapore, il gusto del mangiare, ma ci sono anche i nostri bambini che non sanno più neanche qual è la pianta della fragola, del cavolfiore, cioè mangiano sul banco del supermercato. Questa è una cosa, sì, che non fa piacere a nessuno, avere un figlio che cresce con questa idea. Allora si improvvisa che su un terrazzo si possa fare anche un piccolo orto, con diciamo delle stagioni, si seguono le stagioni, queste cose qui, e chiunque può fare questa cosa, cioè, non c'è una persona definita. Sono molte le persone anziane che frequentano diciamo più gli orti sociali, quello è una cosa che fa bene alle persone anziane perché si rilassano, non pensano magari ai problemi che possano avere i figli oppure il mondo stesso. Sono persone che vengono da altre epoche, certo, riscoprono un pochino il loro, la loro, ritornando un po' di anni indietro, queste cose qui. Bene. Mastrella, come si fa a contattarlo eventualmente se qualcuno appunto ha bisogno io di... faccio, diciamo, ho divulgato questa cosa grazie a una fondazione, Campagna Amica, sì, e ha creduto a questo progetto. Comunque abbiamo 3 bei orti attivi a Roma e circa 100 orti come iscritti alla nostra fondazione. Sul sito di www.campagnaamica.it. Bene. Vai sulla pagina Orti Urbani, si fa un, diciamo, si diventa soci nel coso, decide, noi andiamo a vedere chi ha un orto, chi ha un terrazzo, chi ha un giardino che vuole trasformare, io li seguo. Bene, grazie a Fabio Mastrella, il trainer della zappa. Ora abbiamo con noi l'autrice di un libro, L'orto sul balcone. Buongiorno a Grazia Cacciola. Buongiorno. Buongiorno. Senta, grazie, lei ha fatto questo libro perché ha un orto oppure no? Allora, ho fatto questo libro dopo moltissimi anni di orti sul balcone che mi hanno portato poi ad avere anche orti in piena terra e occuparmi, diciamo, per metà del mio tempo di coltivazioni, ma soprattutto di coltivazioni naturali. Cioè, è un po' la differenza di questo libro, il coltivare naturale invece che il coltivare solo biologico. Cioè, ce lo spiega la differenza? Ma certo, la coltivazione biologica è la coltivazione più sostenibile che si può fare, diciamo, sulle grandi aree, su grandi coltivazioni, diciamo una delle più sostenibili. In realtà però impiega, lo sappiamo, molte cose, tra cui le pirettrine, insomma un po' di cosine consentite in agricoltura biologica. L'agricoltura naturale invece, che può essere di diversi tipi, che va dalla biodinamica alla sinergica, impiega solo prodotti naturali, per la maggior parte le piante, quindi si curano le piante con le piante ed è una cosa che si può fare tranquillamente sul nostro balcone. Quindi oltre a produrci la nostra frutta, verdura, ci produciamo anche tutti quei prodotti per curare le nostre piante. Quindi diciamo troviamo tutto sul suo testo. Allora, lo ridico, L'orto sul balcone, autrice Grazia Cacciola. So che lei ha anche un sito www.erbaviola.com. Bene, grazie, grazie, grazie Cacciola. Ora sentiamo un radioascoltatore, Maurizio da Firenze. Buongiorno Maurizio. Buonanotte. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Senta, mi telefono perché ho sentito... Ma lei ha dato la buonanotte, ancora non è, cioè non è notte comunque qui. Va bene Maurizio, vada, vada. Buongiorno, dicevo. Senta, io ho avuto per diversi anni un grosso orto nella zona di Siena, io sono di Firenze, con un amico, e abbiamo sperimentato, per questo telefonato, abbiamo sperimentato, diciamo non certo inventato, ma messo a punto un sistema di irrigazione, la quale irrigazione spesso è un problema, anche avendo a disposizione l'acqua, per chi conduce un orto, che è particolarmente, come dire, conveniente, si fa con pochissima spesa, è particolarmente efficiente e sperimentata per anni, per cui se chi ha un orto avesse problemi di questo tipo, se vuole, non è una proposta commerciale, è solamente una proposta di consigli, se vuole delle indicazioni può contattarmi, vi lascio un numero di telefono. No, il telefono no, deve dare un info dato, il telefono meglio di no pubblicamente. Posso darle una mail? Mail, prego. Maurizio.rinaldi sì? Chiocciola? Chiocciola unifi.it. Bene, grazie, grazie Maurizio. Bene, da Firenze. Alessandro da Bologna, radioascoltatore, buongiorno Alessandro, breve perché devo chiudere. Buongiorno, come vedete per la trasmissione sarò brevissimo. Quest'estate ho fatto le terme a Ischia e con sommo piacere ho riscontrato che nel suo ristorante albergo producevano nel loro orto e da quelle cose lì che il loro orto dava servivano a tavola. Devo dire che come qualità non faceva invidia a nessun altro piatto, ecco, di qualsiasi altro ristoratore. Una ristorazione che era di impresa familiare e con questo presumo che contenessero i risparmi anche per, diciamo, per dare da mangiare ai loro ospiti, ecco. Grazie, grazie Alessandro da Bologna per la testimonianza. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Nuovo sulla fase conclusiva del... Sentiamo Renzo da Modena. Buongiorno Renzo. Buongiorno a voi. Volevo solo così... Questa trasmissione mi intriga perché io sono presidente di un centro sociale di anziani e orti di San Faustino Modena. Sì. Questa idea dell'orto è nata 30 anni fa con la collaborazione con l'amministrazione comunale, i servizi sociali. E questo è stato molto importante perché queste zone ortive che sono in tutti i vari quartieri di Modena creano questa socializzazione che in una città non, insomma, dei punti nevralgici per poter parlare, stare insieme, collaborare, fare cose, scambiarci tante idee, capito? È molto importante perché oltretutto noi portiamo anche i bimbi delle scuole, dei secondi elementari. Bene. Che vengono tre volte all'anno vedendo la semina, la crescita e la raccolta di questi prodotti. Che qualche bimbo dice: ma non è che sono il Conad queste cose o la Coppa, capito? Praticamente noi cioè, riteniamo che quell'idea di tanti anni fa e che oggi sta camminando in tutti i quartieri e abbiamo 1300 orti a Modena, perciò sono tanti. dove sono io, cioè il presidente del San Faustino. Bene, bene. Abbiamo capito, Renzo, di questa grande iniziativa. Ora abbiamo tantissimi radioascoltatori. Comunque, è eccellente questa, addirittura 1300 orti, è una cosa straordinaria. Grazie, Renzo, da Modena. Ora, io volevo chiedere a un personaggio che un architetto specializzato appunto in alcune cose che ora vedremo, se gli orti sono felici, e anche perché quest'autore Paolo Peirone ha scritto proprio un libro su orti felici. Buongiorno Peirone. Buongiorno, buongiorno. Allora, sono felici davvero gli orti? Se sono ben, se hanno una buona esposizione, se hanno della buona terra, se hanno della bella dell'acqua per bene, e una persona che ne sa un po', sono felicissimi. Senta Paolo, ma gli orti sono felici o fanno felici chi fa l'orto? Ma è un controcambio, è veramente è un viceversa. L'orto felice viene in mano a una persona che lo conduce bene e dà felicità di controparte, certamente. C'è poche cose belle come un orto, ma anche dal punto di vista estetico, che sia ben inteso. Senta, ecco, lei ha scritto anche una cosa sui giardini, se non erro. Sì. Proprio. Ecco, volevo chiederle la motivazione di questo boom, perché c'è un boom dell'orto. Io non mi prendo nessuna cosa, è il momento, però in questo momento sono anni che stiamo lavorando per la diffusione, per fare la conoscenza, per farli fotografare, per farli gustare, insomma abbiamo lavorato tantissimo, adesso finalmente qualcuno ha capito. Certamente la crisi ha dato dei colpi in su, nel senso che la gente viaggia un po' di meno, ha più tempo. L'orto ha un problema grosso di fondo, la continuità. Non si può abbandonare un orto e dire vabbè, torno tra 20 giorni e me ne vado alle Maldive. Certo. Manco per sogno. O si trova un ortolano amico che prenda lavori al posto dell'orto, ma è proprio un fatto anche molto bello e costruttivo di seguirlo dal seme alla tavola. Bene, grazie Paolo Peirone. Allora lo ripeto, autore di un libro che si chiama Gli Orti Felici. Sentiamo, abbiamo con noi ora Annalisa Donorio, che è responsabile del progetto dello Slow Food Orto in Condotta, che parte, credo ci sia, parte in questi giorni o già partito. Buongiorno Annalisa. Buongiorno. No, il progetto è già partito quasi 8 anni fa ormai. Sì, no, dicevo, ma però quest'anno è stato rilanciato, ho visto ultimamente da una presentazione, se non erro. Sì, abbiamo soprattutto la festa nazionale che viene festeggiata lunedì da tutti i nostri orti in Italia, sono ormai 435 quasi, per cui sì, lunedì sarà grande festa in tutta Italia, ci sono 9.000 bambini che giocheranno. Il tema di quest'anno scolastico è la frutta. Quindi lavoreranno a scuola, faranno dei giochi, degusteranno frutta tutto piano, insomma. Senta, sono cresciuti di anno in anno questi orti, mi sembra di capire. Sì, sono cresciuti tanto, appunto abbiamo iniziato in Italia nel 2004, c'è stata una crescita esponenziale, adesso la crisi un po' si sente perché insomma i finanziamenti sono più difficili da trovare, però l'entusiasmo degli insegnanti ci permette di portare avanti gli orti, perché ovviamente oltre ai finanziamenti ci vuole tanto, tanto impegno, si sa, gli orti richiedono lavoro, richiede lavoro a lavorare con una comunità di persone nell'orto che sono i bambini, le famiglie, i nonni. Però insomma pare che ci sia ancora questa voglia di lavorarci. Senta, la reazione dei bambini? Curiosità, entusiasmo, divertimento, si divertono. Diciamo che gli insegnanti iniziano il progetto dell'orto per far mangiare i bambini la verdura, perché di solito non la fanno. È vero, sì, è vero questo. No? Però scoprono che mangiare verdura non solo fa bene, ma è anche divertente. Cioè, i bambini si affezionano alle piante che coltivano e quindi poi vogliono assaggiarle. Magari non piacciono subito, ma se non altro sviluppano la curiosità che permette poi loro di assaggiarne di più e di mangiarla magari dopo. Bene, grazie Annalisa Donorio, responsabile progetto Orto in Condotta dello Slow Food. Sentiamo un radioascoltatore, Giancarlo dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno Paolini, tutto bene? Sì, bene, bene. Mi dica velocemente perché ho altre telefonate da far ascoltare. Perfetto. Allora, io ho cominciato a 19 anni quando tutti i miei coetanei mi prendevano in giro per quanto riguarda l'attività nell'orto. Oggi sono molto soddisfatto perché vengono a reperire, oltre che prodotti, orticoli, notizie e imparare a fare ginnastica all'aria aperta, persone, giovani e adulti che vogliono gustare saperi e sapori per tutti. In questo momento sto preparando una torta con una delle varietà più antiche di mele, delle 7000 che ci ha dato la natura quando l'uomo purtroppo coltiva le pornomele, definisco questo termine sì, con quello che usava il carissimo Tonino Guerra, che è scomparso quest'estate. Sì. Sì. Sto facendo una torta che va a ruba per ristoranti, purtroppo non lo posso fare per lavoro, però questo comporta veramente conoscere saperi genuini e soprattutto un accostamento all'aria aperta, come le ho scritto in un SMS da parte di una valle industriale, la Valle Seriana, che è una valle dove l'opulenza ha portato la gente ad acquistare macchinoni, ma poi oggi ci si ritrova veramente in una grossa condizione di difficoltà. Le lascio spazio per alcuni domande. Bene, grazie, grazie Giancarlo. Agostino da Roma, ho 30 secondi, Agostino. Eccomi, buongiorno. 30 secondi. La trasmissione, io volevo dire che sono un orticoltore di prima generazione. Bene. Per mestiere sono un amministratore delegato di una spa, e sono 20 anni che faccio l'orticoltore. È stata mia scelta proprio per allontanarmi diversamente dagli altri che cercano di socializzare, io per stare un po' da solo. E le dico che sono anche sommelier, per cui sto sempre alla ricerca di prodotti buoni e quindi con soddisfazione do i miei prodotti alla famiglia che ne godono pienamente, insomma, ecco. E ho trovato dei modi, dei sistemi. Io abito a Roma, io ho l'orto a 60 km, tutte le domeniche vado a fare l'orto e ho logicamente l'innaffiamento automatico, e per evitare le erbe, per le erbacce che crescono a gramigna, ho utilizzato il sistema di mettere dei teli per terra, per cui ogni domenica che vado raccolgo solo, è logico che l'ingegnerizzazione dell'orto preventivamente costa un po' fatica, però grazie Agostino, grazie Agostino, continui a fare i 60 km domenicali. Bene, io per chiudere devo leggere un SMS. Buongiorno, non le sembra un po' ridicolo questi ristoranti che con un orticello fanno poi centinaia di pasti? Interrogativo Aldo, io sono d'accordo con lei, ci sono molti falsi orti nei ristoranti perché in questo momento è la moda, quindi bisogna fare molta attenzione, così magari andare a vedere veramente l'orto, capire se veramente lì crescono delle cose stagionali oppure arrivano da altra parte. Credo che la moda porti anche, come diciamo un grande economista aveva scritto, la moneta cattiva, e quindi quando va quando la moda tira probabilmente ci sono anche appunto questi figli degeneri che sfruttano l'occasione. Abbiamo chiuso questo bellissimo viaggio tra gli orti felici. Io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11:15, ma vi ricordo che in allegato al sole oggi è uscito il nono libro della, diciamo, delle guide del gastronauta, che si chiama Le botteghe del gusto. Quindi sarebbero tutti i negozi in tutta Italia, sono oltre 240, dove è possibile acquistare, diciamo, dei prodotti di grande qualità, con una grande selezione che è stata fatta in questa guida. Buona giornata a tutti e buon weekend magari negli orti.